sorriso acceso e sincero che si mostrava agli occhi della gente così, lo so, e non mi ero accorto che eri stato così veloce che è passato un attimo e già tu non ci sei. Saluto il tuo modo di fare le cose, racchiuso ormai in una piccola fiamma.